Questo è un audiolibro realizzato per il progetto LibriVox. Libera i libri con la tua voce. Questo audiolibro è rilasciato sotto la licenza Creative Commons, attribuzione non commerciale, condividi allo stesso modo. Audiolibro registrato da Marzia, marzia@cumaves.it. Che cosa è la mafia? Di Gaetano Mosca. Capitolo 2. Il sentimento di mafia, o meglio lo spirito di mafia, si può descrivere in poche parole. Esso consiste nel reputare segno di debolezza o di vigliaccheria e ricorrere alla giustizia ufficiale, alla polizia e alla magistratura per la riparazione dei torti o piuttosto di certi torti ricevuti. Sicché mentre generalmente è ammesso, anche da coloro che agiscono secondo le norme dello spirito di mafia, che il furto semplice, la truffa, lo scrocco ed in genere tutti i reati nei quali l'autore si aiuta esclusivamente con l'astuzia e l'inganno e non presume di esercitare una violenza e di avere forza e coraggio maggiore della vittima, si possono denunziare alla giustizia. Ciò invece sarebbe interdetto da un falso sentimento di onore o di dignità personale, quando il reato riveste il carattere di una imposizione aperta e sfacciata di un torto che il reo intende di fare specificatamente ad un dato individuo, al quale vuole far sentire la propria superiorità e col quale non cura di stare in buoni rapporti perché non ne teme l'inimicizia ed il rancore. Le offese all'onore delle famiglie, le percosse, le violenze personali, l'omicidio in rissa o per agguato sono tutti reati per i quali la denuncia alla giustizia è ritenuta dai mafiosi cosa sconveniente e vile, che porta con sé una specie di squalificazione cavalleresca. Ma non sono i soli, anche il taglio delle viti, l'uccisione del bestiame, l'abigeato e perfino la grassazione e il ricatto con sequestro di persona quando assumono, e ciò avviene spessissimo, il carattere di vendetta personale, di sfregio fatto ad un dato individuo, non sarebbero a rigore denunciabili e se si denunciano è pro forma per mettersi in regola, come si dice in Sicilia, con la giustizia, ma senza in nulla agevolarla nella scoperta del reo che invece spesso si conosce benissimo e dal quale si vuole fare sentire il peso della propria personale vendetta. Ed è qui da notare che il carattere di vendetta e di offesa verso una determinata persona è una vera specialità della delinquenza siciliana. Reati che altrove non avrebbero alcun movente personale, che sono ordinariamente preparati da rei professionali che scelgono indifferentemente per vittime tutti gli individui che si trovano alla loro portata, in Sicilia assumono la parvenza di una vendetta per un torto vero o supposto che il reo o qualche suo parente o amico avrebbe subito da parte della vittima. Ben inteso che spesso il torto accennato non è la vera causa, ma piuttosto il pretesto del fatto delittuoso. È per questa ragione che gli italiani del continente, ed in generale tutti i forestieri che viaggiano o anche abitano in Sicilia, sono quasi sempre spettati da malfattori, perché, non avendo il forestiero in generale rapporti con la classe delinquente, è difficile che contro di lui possa addursi il pretesto di una vendetta personale. È per la stessa ragione che gli stessi siciliani che abitano nelle grandi città dell'isola raramente sono vittime di reati premeditati, giacché nelle grandi città ognuno può scegliere liberamente le persone con le quali vuole stabilire qualunque genere di rapporti e di rancori personali più difficilmente si accendono e non trovano alimento nei contatti e negli attriti quotidiani come avviene nei piccoli centri. Stabilito il principio che per la prevenzione e la riparazione di una larga categoria di offese personali un uomo che vuole e sa farsi rispettare, è la frase tecnica, non deve ricorrere alla giustizia legale, né viene la conseguenza che è lecito, anzi doveroso, ingannare le autorità, o almeno non dare ad esse alcune lume, quando vogliono intromettersi nelle contese private, disturbandone lo svolgimento naturale con l'applicazione dei canoni del codice penale. Quindi filiazione diretta dello spirito di mafia è l'omertà, quella regola secondo la quale è atto disonorevole dare informazione alla giustizia in quei reati che l'opinione mafiosa crede che si debbano liquidare fra la parte che ha offeso e quella offesa. E questa regola, che si applica anche nelle vertenze fra i terzi, è la principale causa che induce nei processi penali i testimoni a diventare così spesso bugiardi o meglio reticenti. Perché nel siciliano, anche che appartenga alle classi più misere rozze, la vera bugia è rara ed egli difficilmente racconterà il falso, ma assai di frequente mostrerà di non conoscere o di non ricordare il vero, che invece conosce e ricorda benissimo. Ho conosciuto anche persone colte dell'Alta Italia che trovavano qualcosa di fiero, di simpatico, almeno di non completamente ignobile, in questo sentimento, spirito di mafia, per il quale ogni individuo crede onorevole fidare nella sua forza e nel suo coraggio per respingere e prevenire le offese. Ma accade talvolta che anche una maniera di pensare e di sentire, i cui moventi non sono tutti ignobili, produca in complesso risultati dannosi, ed in questo caso bisogna avere il coraggio di condannarla energicamente e senza attenuanti. Or lo spirito di mafia è un sentimento essenzialmente antisociale, il quale impedisce che un vero ordine e una vera giustizia si possano stabilire ed abbiano efficacia fra le popolazioni che ne sono largamente e profondamente affette. Come vedremo più avanti, esso inoltre ha per ultima conseguenza l'oppressione del debole da parte del forte e la tirannia che le piccole minoranze organizzate esercitano a danno dell'individuo e della maggioranza disorganizzata. Si potrebbe invece con più ragione osservare che lo spirito di mafia non è speciale alla Sicilia, che esso si è trovato e si trova in tante altre parti del mondo, dovunque la giustizia sociale si è mostrata o si mostra incapace a sradicare ed a sostituire del tutto il sistema della vendetta privata. Lo spirito di mafia, infatti, molto attenuato, esiste ancora nell'Italia centrale ed attenuatissimo in quella settentrionale. Se il vocabolario che lo esprime nacque in Sicilia, ciò avvenne perché colà, grazie a circostanze che si debbono forse ricercare nella storia del secolo testé morto moribondo, la mafiosità è più radicata, più generale e profonda ed è diventata più disciplinata ed organizzata. Così avvenne che i gesuiti diedero il loro nome al gesuitismo, che essi non inventarono né sono soli a praticare, ma che praticarono assiduamente e che con l'assidua pratica perfezionarono e coordinarono il sistema. In molte parti dell'Italia centrale, il popolino crede sempre che il poliziotto, lo sbirro, sia un essere abbietto e non approva che uno che viene ferito in rissa da una coltellata riveli alla giustizia il nome del feritore. Anche là abbiamo dunque non solo la mafia, ma la sua indivisibile compagna, l'omertà. E se gli operai di Torino sono in generale immuni da questa lue, nei bassissimi fondi di questa città, fra i Barabba e Garganian, è ancora in vigore ed è in onore una maniera di fare perfettamente analoga. Ma anche nelle alte classi di buona parte d'Europa e di tutta l'Italia, un leggerissimo spirito di mafia ancora sussiste. Fra esse si ammette infatti che per certe offese personali la riparazione non bisogna cercarla nella giustizia legale, ma nel duello, il quale non è in ultima analisi che una forma attenuata, regolarizzata, circondata da garanzie, di quella tensione sanguinosa fra due individui a cui ricorrono spesso i popolani della Sicilia e di tutta l'Italia meridionale centrale per definire le loro querele.